24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di mantenere invariato all'1% il tasso di riferimento principale di Eurolandia, una decisione in linea con le attese di mercati e analisti. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha intanto parlato di ripresa graduale. Pochissimi ieri avrebbero scommesso su un taglio del costo del denaro e infatti la BCE resta ferma sull'1%. Decisione che, assieme ai pericoli che ancora corre l'economia, citati da Draghi, hanno rallentato i listini fino a farli chiudere con il segno meno. Usando il consueto equilibrismo tra le parole, il numero uno di Francoforte ha ricordato che sulla ripresa graduale pesa l'incertezza e i rischi sono al ribasso. Detto ciò, spetta ai governi nazionali fare le riforme strutturali per la crescita, crescita che non è in contraddizione con il rigore fiscale. Alcuni paesi si stanno muovendo, riconosce Draghi, altri devono essere più ambiziosi. A proposito di conti pubblici, meglio tagliare la spesa che aumentare le tasse, dice Draghi, e per essere precisi, meglio tagliare la spesa corrente che quella per investimenti. Un riferimento al governo Monti? Chissà, certo è che poi Draghi cita proprio Italia e Spagna come esempi di paesi in cui sono stati fatti progressi nei bilanci. Proprio oggi Madrid ha collocato tutti i titoli di Stato, pagando però tassi più alti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come avete sentito, le parole del presidente della BCE, Mario Draghi, hanno influito sui listini del vecchio continente. Sentiamo. Giovedì di incertezza per le borse europee. Dopo un continuo saliscendi, nell'ultima parte della seduta i listini sono stati orientati al ribasso dall'intervento del presidente della BCE, Mario Draghi, e dai dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti. La mancanza di riferimenti nelle parole di Draghi a possibili nuovi allentamenti della politica monetaria per sostenere l'economia e le indicazioni peggiori delle attese sul settore dei servizi americano hanno fatto perdere terreno alle quotazioni. Piazza Affari è stata tra le peggiori, con il FTSE All Share in calo dello 0,55% e il FTSE MIB dello 0,67%. Tra i titoli, Finmeccanica ha lasciato sul terreno il 4,03%, nonostante la trimestrale in linea con le attese. A penalizzare le quotazioni è stata la mancanza di aggiornamenti sul previsto piano di dismissioni da 1 miliardo da realizzare entro il 2012. Deboli le banche, mentre ha guadagnato il 2,79% Atlantia. Paolo Paronetto, da Radiocorp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Consiglio dei Ministri delle Finanze UE del 15 maggio prossimo dovrà trovare un accordo sui nuovi parametri europei per la capitalizzazione delle banche, necessari per recepire le regole di Basilea 3 e mettere al riparo gli istituti di credito dal rischio fallimento. Dopo 16 ore di trattative, infatti, l'Ecofin non è andato oltre un parziale accordo di compromesso, un'intesa dai contenuti tecnici ancora da verificare che i ministri delle Finanze dei 27 dovranno cercare di estendere. Le prospettive di crescita dell'Europa e forse in particolare dell'Italia devono prendere le mosse dal triangolo della conoscenza, costituito da istruzione, ricerca e innovazione, per i giovani e per colmare il divario che ancora oggi esiste tra ricerca, innovazione e mercato. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il commissario europeo per la ricerca, l'innovazione e la scienza. Andiamo in Francia, ultime ore di campagna elettorale in vista delle presidenziali del 6 maggio. Mercoledì il dibattito di 3 ore in TV tra i due aspiranti presidenti, Nicolas Sarkozy sotto di 8 punti nei sondaggi e François Hollande, lo sfidante socialista. Sentiamo chi ha vinto, secondo Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Lo ha intervistato Laura Bettini. La sensazione è che ci troviamo di fronte a due candidati comunque deboli. Uno perché paga il prezzo della governance, e l'altro perché onestamente non mi pare abbia portato idee rivoluzionarie. Questo dibattito, secondo lei, ha convinto gli indecisi, che non sono pochi? Guardi, gli indecisi difficilmente, secondo me, si fanno influenzare in maniera determinante da questa realtà di dibattiti, anche perché, ripeto, proprio ieri sera non mi pare che i due candidati abbiano espresso una visione diametralmente opposta di come loro concepiscono lo Stato. Di fatto i problemi europei non hanno trovato fino a questo momento, i problemi naturalmente nazionali non hanno trovato fino adesso delle ricette sconvolgentemente diverse da chi le applica. E cosa faranno gli elettori del Fronte Nazionale, il partito di estrema destra che al primo turno ha preso quasi il 18% dei voti? Riccardo Pennisi, analista di politica europea per le riviste Limes e Aspenia. Circa una metà di coloro che hanno votato per Marine Le Pen al primo turno passeranno a votare Sarkozy al secondo turno, però questo non basta. In passato gli elettori del Fronte Nazionale passavano in larga maggioranza ad appoggiare il candidato moderato di destra. Quest'anno non sarà così, soprattutto anche perché Marine Le Pen ha fino ad oggi descritto Sarkozy come la copia di François Hollande. Questo rende molto più difficile per Sarkozy cercare di conquistarli, anche perché i temi europei, Marine Le Pen ha sempre parlato di uscire dall'euro, di tornare al franco francese, di uscire dall'Unione Europea addirittura. Naturalmente Sarkozy non può prendere queste posizioni e l'unico argomento che gli rimane è quello dell'immigrazione, del contrasto all'immigrazione, di dipingere la eventuale presidenza socialista come una presidenza che favorirebbe in Francia un'invasione di immigrati. E sentiamo riguardo il commento di Marco Mussanè del Sole 24 Ore. Sarkozy è partito bene, meglio di Hollande, nella prima parte dedicata ai temi economici in cui ha difeso il suo bilancio con efficacia, tranquillo, preciso, ben preparato sulle cifre. Hollande ha avuto il merito di essere buon incassatore, in qualche modo lasciar passare la tempesta iniziale e poi andare al contrattacco al momento opportuno. Ha ben gestito la seconda parte del dibattito, quella dedicata ai temi più sociali, più diciamo politici, istituzionali, e direi che alla fine l'impressione è stata quella di un Hollande arzillo, brillante, in forma, e di un Sarkozy un pochino stanco, un pochino prostrato, direi quasi rassegnato. Adesso in Gran Bretagna, dopo anni di esilio politico in cui ha guadagnato milioni con le sue società di consulenza, Tony Blair sarebbe pronto a tornare in politica. Voglio rientrare, ho ancora cose da dire, avrebbe detto, esprimendo anche la convinzione che i connazionali abbiano dimenticato il suo ruolo al fianco di George W. Bush nella guerra in Iraq. L'ex premier ha assunto un nuovo stratega che lo aiuterà a far superare le polemiche sui suoi complessi affari finanziari. La compagnia di volo tedesca Lufthansa ha annunciato l'intenzione di tagliare 3.500 posti di lavoro nell'ambito di un piano di risanamento. Solo se mettiamo in conto adesso una ristrutturazione potremo in futuro mantenere i posti di lavoro e crearne di nuovi, ha detto a Francoforte il leader del gruppo. Da Bruxelles in arrivo una nuova strategia per trasformare Internet in un luogo più sicuro per bambini e adolescenti. Per bambini e adolescenti Internet sarà un luogo più sicuro di quello che è stato finora. La Commissione europea ha lanciato una nuova strategia per la tutela dei diritti dei minori sul web e una lotta contro gli abusi sessuali e la pedopornografia. Un piano che si basa sulla collaborazione tra l'esecutivo dell'Unione europea, gli stati membri, gli operatori di telefonia mobile e i social network. Ad annunciarlo il commissario dell'Unione europea per l'agenda digitale Neelie Kroes, secondo cui Internet non è stato progettato per i bambini, ma oggi il 75% lo usa, anche lontano dal controllo dei genitori. La rete è una piattaforma che offre opportunità e orizzonti spesso poco immaginabili, ma è una lama a doppio taglio, soprattutto per le fasce più deboli. Perciò la Commissione europea vuole fornire contenuti di qualità e servizi per la protezione contro i reati più diffusi. Fra gli obiettivi, fanno sapere da Bruxelles, quello di sviluppare un senso di responsabilità e consapevolezza in bambini e adolescenti che usano gli strumenti che il web mette a disposizione. Il nuovo piano prevede infatti un insegnamento approfondito di Internet in tutte le scuole comunitarie. Doriana Leonardo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con un paio d'ore a settimana di corsa leggera si guadagnano 6 anni di vita. Lo ha scoperto uno studio che verrà presentato al meeting dell'Associazione Europea per la Prevenzione Cardiovascolare a Dublino, secondo cui invece attività più intense non danno lo stesso beneficio. La ricerca, condotta a Copenaghen, ha coinvolto 2.000 persone che sono state seguite per 35 anni. La corsa per 2 ore alla settimana ha ridotto la mortalità del 44%, allungando la vita di 6,2 anni negli uomini e di 5,6 nelle donne. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.